Non ricordo più in quale antica tribù vigeva la consuetudine che al termine di ciascun giorno si deponesse in un vaso un piccolo ciottolo, nero o bianco, a seconda che la giornata fosse stata cattiva o buona. Una consuetudine molto ragionevole. Alla fine della vita di un uomo si rovesciava il vaso e si poteva constatare se era stata una vita felice o infelice. Al posto di questo rito dei piccoli ciottoli, potrei scrivere al termine di ciascun giorno su questo diario: la vita è bella o brutta o difficile o meravigliosa. Lo farò per un mese, curiosa di vedere il risultato. Stasera, alle 11:30 del 7 agosto 1941, scrivo con la più ferma convinzione: la vita è buona. Quando affida le sue emozioni ad un diario, Esther Hillesum è una giovane donna di 27 anni ed è in una fase della sua vita di profonda trasformazione. È a Deventer, in Olanda, a casa dei genitori, ed è innamorata di un affascinante psicologo, S, da cui è in cura. Una storia tormentata alla quale fa da sfondo il cupo scenario della Seconda Guerra Mondiale, che per due amanti ebrei significa il continuo confronto con l'esperienza della persecuzione razziale, messa in atto attraverso leggi e misure sempre più umilianti per la popolazione ebraica olandese, e la minaccia sempre più incombente della deportazione. Eppure, nonostante queste difficoltà, deporrà molti ciottoli bianchi nel vaso della vita. Malgrado tutto, la sua è stata un'esistenza felice, ricca di significato, e dal campo di concentramento ribadirà con fermezza la propria convinzione che la vita è bella ed è degna di essere vissuta in qualsiasi condizione. Nel diario in cui ha quotidianamente registrato con la sincerità che solo la scrittura privata, con tutte le esperienze interiori che hanno sostanziato la sua storia, può restituire, vediamo il frutto di una profonda trasformazione interiore, di cui lei stessa è la principale protagonista e artefice, e sia la sensazione che la giovane ebrea sia divenuta, anche attraverso la faticosa costruzione della propria personalità, la donna affettuosa, generosa, forte, ricca di spirito, che ci viene incontro nelle pagine dei suoi scritti. Mercoledì pomeriggio. Ho troppo cuore. Tuttavia ho imparato a non crollare sotto lo strazio dei miei sentimenti. Con tutto il dolore che ho intorno, inizio a provare una sorta di vergogna per le mie lagnanze. Devo vivere e affrontare ogni ostacolo che mi si erge innanzi. Talvolta mi sento come un palo piantato in mezzo al mare in tempesta, ma io rimango salda al mio posto, nonostante lo scorrere degli anni e l'implacabile schiaffeggiarmi dei flutti. Voglio continuare a vivere pienamente. Desidero farmi cronista degli accadimenti del mio tempo. A volte ho l'impressione che sia questo il mio compito: fare chiarezza in me e allo stesso tempo descrivere ciò che accade. Povera mia testa e povero cuore, quante cose dovrete sopportare. Ma confidando nel fatto che sapete reagire ad ogni impulso esterno, già non piango più. Eppure la testa mi gira. Qui è tutto un inferno. Ieri, per un momento, ho pensato che non avrei potuto continuare a vivere, che avevo bisogno d'aiuto. La vita e il dolore avevano perso il loro significato. Mi sembrava di sfasciarmi sotto un peso enorme. Ma anche questa volta ho combattuto una battaglia che poi, all'improvviso, mi ha permesso di andare avanti con maggior forza. Ho provato a guardare in faccia il dolore dell'umanità. Coraggiosamente e onestamente ho affrontato questo dolore. O meglio, l'ho fatto qualcosa in me stessa. Molti interrogativi disperati hanno trovato risposta. L'assurdità completa ha ceduto il posto a un po' più d'ordine, di coerenza. Ora posso andare avanti di nuovo. È stata un'altra breve ma violenta battaglia. Ne sono uscita con un pezzetto di maturità in più. Ho scritto che mi sono confrontata col dolore dell'umanità. Questi paroloni mi fanno ancora paura, ma non è del tutto esatto. Mi sento piuttosto come un piccolo campo di battaglia su cui si combattono i problemi, o almeno alcuni problemi del nostro tempo. L'unica cosa che si può fare è offrirsi umilmente come campo di battaglia. E ora? Ora sono semplicemente me stessa. Etty Illesum. Una laboriosa studentessa in una camera ospitale con dei libri e un vaso di margherite. Etty Illesum è una giovane donna dalla forte e vivace personalità, determinata e risoluta. Ha conquistato questa forza attraverso un lavoro su se stessa, un'opera di costruzione e formazione del proprio carattere, un faticoso esercizio che ricorda per certi aspetti quello degli stoici. È lei stessa a sottolinearlo spesso nel suo diario. In questa sua fortezza, eretta con fatica, lei non si ritira per coltivare in quieta solitudine le proprie virtù. Etty non si isola dal mondo e dagli altri uomini perché in lei si costruisce il proprio io, non fine a se stesso, ma costruttore del rapporto con gli altri, tanto nei rapporti amorosi quanto in quelli di amicizia. Nell'ultima pagina dell'undicesimo quaderno afferma che diventare se stessi significa prima di tutto realizzare la propria umanità. Il rapporto con l'altro, all'insegna della carità, ha addirittura il sopravvento sulla ricerca della propria perfezione morale. Mercoledì mattina, 18 giugno 1941, le 9:30. Devo recuperare un'antica saggezza. Chi riposa in se stesso non tiene conto del tempo. Una vera maturazione non può tenere conto del tempo. Ieri sera. Questa mattina mi sono messa a dieta per quanto la riguarda. E invece adesso sono di nuovo qui per la seconda volta. S è davvero un tipo parecchio divertente. A volte lo idealizzo troppo e in altri momenti riesco a sottovalutarlo terribilmente. Un giorno riuscirò a trovare la giusta via di mezzo. Lei non deve innamorarsi di me. Io ho una fidanzata. Innamorarsi non è un'arte, occorre molta più arte per non farlo. Posso immaginare che talvolta lei mi trovi banale e che stare con me la annoi. Prima impressione, dopo pochi minuti. Una faccia non sessuale, non olandese. Un tipo in qualche modo familiare, non del tutto simpatico. Seconda impressione, occhi grigi, intelligenti, incredibilmente intelligenti, vecchissimi, che riuscivano per un po', ma non a lungo, a distogliere l'attenzione da quella grossa bocca. Molto impressionata dal suo lavoro. E poi la risata, generosa e piena di un uomo amabile. La sorgente di ogni cosa deve essere la vita stessa, mai un'altra persona. Molti, invece, soprattutto le donne, attingono le proprie forze da altri. È l'uomo la loro sorgente, non la vita. Mi sembra un atteggiamento quanto mai distorto, innaturale. Venerdì 4 luglio 1941. Sono agitata, di una bizzarra, diabolica irrequietezza, che potrebbe anche essere produttiva se sapessi che farmene. È un'irrequietezza creativa, non fisica. Neppure una dozzina di appassionate notti d'amore potrebbe placarla. È quasi un'irrequietezza sacra. Mio Dio, prendimi nella tua grande mano e fammi tuo strumento. Fa che io possa scrivere. È stato tutto per colpa di quell'S, con la sua analisi. Ho aperto il suo cuore. E tuttavia mi sono resa conto che non si può spiegare l'essere umano con nessuna formula psicologica. Solo un artista è in grado di rendere ciò che resta di irrazionale nell'uomo. Non so come andrà a finire con questo mio scrivere. Tutto è ancora caotico. Non ho abbastanza fiducia in me stessa. O piuttosto, non sento veramente la necessità di dire qualcosa. Aspetterò ancora, fin quando tutto verrà fuori, spontaneamente, e troverà una forma. Prima però, devo trovare io stessa una forma. La mia forma. A Deventer, le mie giornate erano come grandi pianure illuminate dal sole. Ogni giornata era un tutto ininterrotto. Mi sentivo in contatto con Dio e con tutti gli uomini. Probabilmente perché non vedevo quasi nessuno. C'erano campi di grano che non dimenticherò mai, dove mi sarei quasi inginocchiata. C'era l'Eisel, con i parasole colorati, il tetto coperto di canne, i pazienti cavalli. E poi il sole, che assorbivo con tutti i pori. Qui, invece, le giornate sono fatte di mille pezzetti. La grande pianura è sparita. E così Dio. E se andrà avanti di questo passo, io rimetterò tutto in questione. E questa non è profonda filosofia, ma un segno che non sto bene. E poi c'è quella strana irrequietezza che non so ancora come sistemare. Ma chissà che essa non possa dare buon frutto nel mio lavoro. Quando saprò incanalarla? Etty nel 1942 lavorava come dattilografa per la sezione del Consiglio Ebraico. Ma quando la sua gente fu costretta a emigrare al campo di Westerbork, lei scelse di condividere con loro la stessa sorte, anche se con le sue conoscenze avrebbe potuto evitarlo. Nato originariamente come campo per rifugiati creato nei Paesi Bassi, divenne, dopo l'invasione nazista, un campo di transito per rifugiati e detenuti della Seconda Guerra Mondiale, situato nel Drento, nel nord-est del paese. È stato uno dei tre campi usati per raggruppare ebrei e zingari olandesi, per poi deportarli nei campi di sterminio e nei campi di concentramento nazisti. Fin da subito i rifugiati dovettero lavorare, duramente, in particolare in una grande fattoria. Il duro lavoro li teneva allenati e in forze, ed era necessario, perché il raccolto proveniente dai terreni della fattoria avrebbe dovuto sfamare l'intero campo. Coloro che non erano abituati a svolgere lavori pesanti si sentivano affaticati e doloranti. Più andavamo avanti, più soli diventavamo. Ad un certo punto tutto quello che potevamo vedere erano campi di erica e qualche cespuglio qua e là. E nel punto dove il campo dei rifugiati sarebbe stato eventualmente costruito c'era un enorme altopiano dove c'erano solo erica e sabbia. Tutto questo era molto cupo e tetro. A essere sincera, ora mi trovo in un bel impiccio. Che cosa dovrei propriamente raccontare sulla vita a Westerbork? Era estate quando vi giunsi. Fino a quel momento del Drente, io sapevo solo che c'erano molti dolmen e nient'altro. Ora ci trovavo un villaggio di baracche di legno, incorniciato da cielo e brughiera, con un campo di lupini straordinariamente gialli nel mezzo e tutti intorno filo spinato. Laggiù si poteva incontrare una grande abbondanza di vite umane. A dire la verità, io non avevo mai saputo che un certo numero di tedeschi fossero confinati già da 4 anni su quella brughiera. In quei primi giorni giravo per il campo come se stessi sfogliando le pagine di un libro di storia. Incontrai persone che erano già state a Buchenwald e Dachau, in un'epoca in cui per noi questi nomi erano ancora suoni lontani e minacciosi. Incontrai persone che avevano girato il mondo su quella nave che non aveva avuto il permesso di approdare in nessun porto. Ve ne ricorderete di certo, allora i nostri giornali ne parlarono abbondantemente. Vidi molte fotografie di bambini piccoli, che nel frattempo saranno cresciuti non poco, in qualche luogo ignoto di questa terra. Chissà se sapranno ancora riconoscere i propri genitori. Semmai potranno rivederli. In quell'estate del 1942, sembra che siano trascorsi anni da allora, laggiù è successo in pochi mesi più di quanto si possa elaborare in un periodo così breve. Il piccolo insediamento fu radicalmente sconvolto e i vecchi residenti assistettero sbalorditi alla deportazione in massa degli ebrei dall'Olanda all'Europa orientale. Anch'essi, in un primo tempo, avevano dovuto fornire il loro ampio tributo umano, quando il totale dei lavoratori volontari era risultato non del tutto soddisfacente. Una sera d'estate ero seduta a mangiare il mio cavolo rosso sul ciglio giallo di lupini che dalla nostra mensa si estendeva fino alla baracca di disinfestazione e riflettevo con aria ispirata. Si dovrebbe scrivere la cronaca di Westerbork. Un uomo anziano seduto alla mia sinistra, anche lui con il suo cavolo rosso, aveva replicato: sì, ma ci vorrebbe un grande poeta. Quell'uomo ha ragione, ci vorrebbe proprio un grande poeta. Le semplici cronache giornalistiche non bastano più. Tutta l'Europa sta diventando pian piano un unico grande campo di prigionia. Tutta l'Europa finirà per disporre di simili amare esperienze. Sarà monotono se noi ci riferiremo scambievolmente ai fatti nudi e crudi. Le famiglie lacerate, le proprietà sottratte, le libertà perdute. E anche a proposito di filo spinato e di pasticcio di patate e verdure, non si possono fare dei resoconti molto pittoreschi a coloro che sono rimasti fuori. Mi domando, del resto, quanti ne potranno rimanere fuori se la storia insiste ancora a lungo a percorrere i sentieri intrapresi. Volevo solo dire questo. Io non sono poeta e mi sento per giunta piuttosto sprovveduta di fronte alla promessa fatta ad esse. Perché sebbene Westerbork sia per noi un nome ricco di significato che continuerà a risuonare nella nostra vita futura, io non saprei bene che cosa raccontare in proposito. La vita laggiù è così movimentata, anche se molti diranno che è invece di una monotonia mortale. Così, eccomi qui, a un'ora inaspettatamente tarda, davanti ad alcuni fogli bianchi. Westerbork. Se capisco bene, questo luogo, oggi epicentro della sofferenza ebraica, era deserto e incolto appena 4 anni fa. E lo spirito del Ministero della Giustizia aleggiava nel cielo di questa brughiera. Qui non si poteva vedere neanche una farfalla o un fiorellino e neppure un verme. Mi assicurano con foga i veterani del campo. E ora? Proverò a scegliere a caso per voi dall'inventario. Ci sono un orfanotrofio, una sinagoga, una piccola camera mortuaria e una manifattura di solette appena agli inizi. Ho sentito parlare della costruzione di un manicomio e a quanto mi consta le baracche dell'ospedale, sempre più numerose, contano già 1 miliardo di letti. La prigione per 2 persone, un piccolo edificio da operetta che si trova in un angolo del campo, pare non offra più spazio sufficiente e si sta progettando la costruzione di un edificio più grande. Forse suonerà un po' strano alle vostre orecchie. Una prigione dentro una prigione. C'è una sala teatrale dove, in un glorioso passato, quando il termine deportazione doveva ancora nascere, un invalido portò una volta Shakespeare sul palcoscenico. Ora, su quello stesso palcoscenico ci sono persone sedute alle macchine da scrivere. C'è fango, talmente tanto fango, che da qualche parte, fra le costole, si deve proprio possedere un gran sole interiore, se non se ne vuole diventare la vittima psicologica. Scarpe rotte e piedi bagnati ve li immaginerete da soli. Sebbene gli edifici del campo siano tutti ad un piano solo, vi si sente parlare con una molteplicità di accenti, come se la torre di Babele fosse stata innalzata in mezzo a noi. E faccio presente che si tratta di una superficie di poco più di mezzo chilometro quadrato. Il filo spinato è una mera questione di punti di vista. Noi dentro il filo spinato sono piuttosto loro a vivere dietro il filo spinato. Diceva un vecchio indistruttibile, con un malinconico cenno della mano, e intanto indicava le alte ville che si innalzano come guardiani dall'altra parte della recinzione. Se il filo spinato circondasse semplicemente il campo, uno si raccapezzerebbe pure, ma anche nel campo stesso, intorno, fra le baracche, si snodano questi fili del XX secolo e formano una rete labirintica impenetrabile. Di tanto in tanto si incontrano persone con graffi sul viso e sulle mani. Ai quattro angoli estremi del nostro villaggio di legno si ergono torrette di guardia, piattaforme battute dal vento, che poggiano ognuna su quattro alti pali. E lassù un uomo con elmo e fucile si staglia contro i cieli mutevoli. Alla sera si sente talvolta sparare nella brughiera, come quando quel cieco si smarrì in un luogo troppo vicino al filo spinato. La penna di Etty possiede accenti così efficaci da saper descrivere, sia pur nel modo più approssimativo, le deportazioni. Alla lunga, viste dall'esterno, queste ultime sembravano di una sconsolante monotonia. Eppure ogni treno era diverso dagli altri e aveva, per così dire, una propria atmosfera. La prima volta che uno di questi convogli passò per prendere intere famiglie e dividerle, accadde di pensare che mai più quelle persone avrebbero potuto ridere o essere liete, che si erano trasformate in persone diverse, invecchiate di colpo e ormai estranee tutte le amicizie di prima. Ma se poi si va fra la gente, ci si rende conto che là dove ci sono uomini c'è anche la vita, e che questa vita si ripresenta nelle sue mille sfumature, con un sorriso o con una lacrima. Faceva molta differenza se si arrivava già preparati e muniti di uno zaino ben fornito, o se si era inaspettatamente trascinati fuori dalle case o falciati via dalle strade. Alla lunga si verificò soltanto il secondo caso. Dopo i primi rastrellamenti, quando arrivarono persone vestite di sola biancheria intima e pantofole, tutta Westerbork si spogliò fino alla camicia in un unico gesto di sgomento e solidarietà. Venerdì 2 febbraio 1942. C'erano bambini che cadevano addormentati sull'assito polveroso o giocavano ad acchiapparsi in mezzo agli adulti. Due bimbetti gironzolano smarriti intorno al corpo pesante di una donna che giace priva di sensi in un angolo. Proprio non capiscono perché la loro mamma se ne stia così, immobile, e non risponda. Un anziano signore dai capelli grigi, dritto come un fuso e con un marcato profilo aristocratico, fissa questa grande scena infernale e ripete di continuo fra sé: un giorno terribile, un giorno terribile. E framischiato a tutto ciò, lo scoppiettio ininterrotto di molte macchine da scrivere, fuoco a mitraglia della burocrazia. Attraverso le tante piccole finestrelle si vedono baracche di legno, filo spinato e arida brughiera. Io fisso un monaco che dopo 15 anni si ritrova nel mondo e gli chiedo: e allora, che cosa gliene pare del mondo? Ma il suo sguardo rimane tranquillo e amichevole sopra la tonaca marrone, come se tutto ciò che lo circonda gli fosse noto e familiare già da molto tempo. Più tardi, qualcuno mi raccontò che quello stesso giorno aveva visto alcuni monaci camminare in fila tra due baracche scure al crepuscolo, mentre dicevano il rosario con la stessa imperturbabilità con cui avrebbero recitato le preghiere nei corridoi dei loro conventi. Mercoledì 16 marzo 1942. Ma gli anziani, tutte queste persone vecchissime e invalide, che me ne faccio del mio filosofare di fronte a loro? Nella storia di Westerbork il capitolo più triste sarà certamente quello dedicato agli anziani. Forse sarà ancora più toccante del capitolo sui maltrattamenti. E sulle mutilazioni della gente arrivata da Ellecom, alla cui vista un brivido di orrore percorse l'intero campo. A persone giovani e sane potevi anche dire che la storia aveva messo sulle nostre spalle un destino di proporzioni straordinarie e che dovevamo trovare la forza, la grandezza adeguata a sostenerne l'eccezionale peso. Tutte cose in cui noi stessi credevamo e che potevamo mettere in pratica nella vita. Era possibile dire che anche noi eravamo come soldati al fronte, sebbene fossimo spediti ad un fronte alquanto singolare. È vero, sembravamo condannati ad una totale passività. Tuttavia, nessuno poteva impedirci di mobilitare le nostre forze interiori. Frammento. Westerbork. Senza data. dopo il 26 giugno 1943. E così, miei cari, rieccomi qui. La lettera che avevo cominciato si trova sotto il mio sacco a pelo a scacchi arancioni. E ora, in un altro angolo del campo, continuerò la mia chiacchierata su un foglietto di carta trovato per caso. Ho appena fatto visita a mio papà, che sta vivendo momenti storici. Ha mangiato un piatto di tavolo e stamattina ha persino bevuto del latte. Mentre aveva sempre giurato che piuttosto di bere latte avrebbe preferito andare in Polonia. Nella cuccetta accanto alla sua dorme un russo, robusto. Un angelo, che gli fa da guida a ogni movimento maldestro. E che di notte si mette a fischiare se lui russa troppo forte. Pare che 400 persone ricoverate in ospedale debbano partire con il prossimo convoglio. Attraversare quelle baracche, soprattutto là dove giacciono tante lecchine, è una vera disperazione. Ognuna ti si aggrappa e supplica: vero che non dovrò partire? Oppure, di qui non ci porteranno mica via? Se si sente sempre lo stesso ritornello, non potrebbe fare qualcosa per me? Ieri una donnina decrepita, magrissima e malata, mi ha chiesto con molta ingenuità: crede che in Polonia ci sia assistenza medica? In un caso simile preferisco scappare via. È quasi incomprensibile che chi ha ormai l'intera vita alle spalle sia così attaccato alla misera carcassa che gli è rimasta. Ma tutti vogliono veder tornare la pace e ritrovare i figli e la famiglia. E questo invece è pienamente comprensibile. Ci aspettava un autocarro in cui entrava l'acqua e fuori diluviava. Siamo arrivati piuttosto fradici. Ci hanno condotti con tutti i nostri bagagli in uno stanzone. Una volta non era così. Dove alcuni gendarmi ci hanno ispezionato gli zaini e le valigie. Ho aperto con molta sollecitudine la valigetta di Giunco con il Corano e il Talmud. Ma non hanno visto il mio grande zaino come una casa. E così ho potuto stare tranquilla. La baracchetta in cui sono alloggiata questa volta è una via di mezzo tra un piccolo magazzino e un boudoir. Letti a castello a 2 o 3 piani. Dappertutto valigie e scatole. Fiori sulla tavola e sul davanzale della finestra. E alcune languide colleghe in lunghe vestaglie di seta. Strano. Davvero. Com'è abita un'ex reginetta di bellezza che ha fatto la vita? Alle 10 di sera ha appoggiato uno specchio al mio portaburro e si è dedicata per mezz'ora alle sue sopracciglia. Non c'era un letto per me. La cosa non era poi così grave, visto che più tardi si doveva lavorare. Da Wut sarebbe arrivato un convoglio di deportati. Il nostro turno cominciava alle 4. Alle 11 di sera mi sono avviluppata tutta vestita in una coperta sul letto di una collega che pareva dovesse lavorare l'intera notte. Il mio lenzuolo a sacco era bagnato ed era appeso ad asciugare. Dopo aver trascorso un'oretta così e aver apprezzato molto la musica di alcuni topi che sembrano essersi moltiplicati durante la mia assenza, ecco arrivare la collega, una signorina miope, dai baffi nerissimi, per la quale non ho mai provato una profonda simpatia. E ora mi ritrovavo coricata con lei in un letto angusto, una situazione che si direbbe piccante. Al nostro risveglio, verso le 4, eravamo un po' anchilosate. In futuro, quando non abiterò più su una branda di ferro, in una terra circondata da filo spinato. Voglio avere una lampadina sopra il mio letto, così di notte intorno a me ci sarà luce, ogni volta che lo vorrò. Spesso nel mio dormiveglia turbinano pensieri e piccoli racconti, impalpabili e trasparenti come bolle di sapone. Vorrei poterli catturare su un foglio di carta bianca. Quando mi sveglio la mattina sono ancora imbozzolata in quelle storie. È un ricco risveglio, sai? Ma poi comincia a volte una piccola passione. Pensieri e immagini si agitano intorno a me. Sono così tangibili e vogliono essere trascritti. Ma non c'è nessun posto in cui si possa stare seduti tranquilli. Certi giorni passo ore a cercare un luogo sicuro. Ieri una signora gentile ha portato un regalo principesco a papà. Un rotolo di carta igienica! Le persone che si trovano nella baracca di punizione devono essere rapate a zero e vestire abiti da prigioniero. Possiamo solo telegrafare viveri, senza specificare. E allora stabiliamo ad esempio così: libro uguale burro, quaderno uguale marmellata, inchiostro uguale pane di segala, string uguale frutta. I malati nelle baracche devono avere la stella cucita sul pigiama. Nella mia baracca ospedale ho incontrato una ragazzina fragile e denutrita di 12 anni. Questa baracca è simile a un pittoresco e soffocante vicolo orientale. Qui ogni cuccetta ha un numero e a quel numero si abita. L'hanno sbattuta in prigione quando era già molto avanti nella gravidanza. Aveva fatto lo sbaglio di dire che non poteva stare in piedi e così l'hanno fatta stare in piedi per ore. Papà già felice come un bambino se non viene calpestato. Un treno con 1020 ebrei lascia l'Olanda. Quei 20 in più sono di riserva per il viaggio. È sempre possibile che qualcuno muoia o venga soffocato. Si potrà mai descrivere al mondo esterno quel che è successo qui? In alcuni vagoni ci sono dei materassi di carta per terra. Quelli sono per i malati. Quanto vorrei nuotare via, nelle mie lacrime, verso un mondo migliore. Qui c'è una stranissima malattia. A volte non si prova il minimo desiderio di mangiare per giorni e giorni. Non potrebbe nascondere il mio bambino? Me lo nasconda, ha la febbre alta. Un bambino malato ti viene tolto e non ti viene più restituito. Sono sempre più convinta che l'amore per il prossimo debba stare più in alto dell'amore per i parenti. Non aveva nemmeno un piatto. Volevo darle il mio, ma non l'ha voluto. Mi ha detto tanto, fra 10 giorni sarò morta. E allora il mio piatto ce l'avranno quegli orribili tedeschi. Se dico che stanotte sono stata all'inferno, che cosa ne potete capire voi? Questa volta non si lasceranno uscire molte persone dal treno all'ultimissimo minuto. Il comandante è arrabbiato. Un giovane ebreo ha osato scappare. Stamattina deportare 50 ebrei in più perché un ragazzo in pigiama celeste si è nascosto in una tenda. Hai sentito? Devo partire. Come? Anche tu? Che peccato, eh? Pensare che quanto hai imparato nella tua vita è stata fatica sprecata. Diversi suicidi stanotte, prima che partisse il treno, con rasoi. Si vive aspettando la prossima deportazione. Terremo duro da una parte e dall'altra del filo spinato, vero? La mia famiglia è ancora al completo per adesso. Com'è possibile che l'ospedale lasci partire delle persone quasi morte? L'ospedale consegna un cadavere per trattenerne uno vivo. Ogni martedì spedirò un breve telegramma. Viveri per 4 persone. Se papà e mamma saranno partiti, telegraferò viveri per 2 persone. A poco si sono fatte le 6 di mattina. Il treno partirà alle 11. Ho fatto ancora tempo a imparare la grande lezione di Matteo 6:24. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Mi saluti, la mia cara scrivania, il più bel posto di questa terra. entrata spontaneamente a Westerbork per aiutare i malati e i bambini. Etty verrà deportata ad Auschwitz durante l'autunno del 1943. Ha con sé, nello zaino, la Bibbia e una grammatica russa, lingua della madre. L'ultima cartolina postale indirizzata all'amica Christine van Nooten è datata 7 settembre 1943. La giovane donna la lascia cadere dal treno, diretto al campo. Sono seduta sul mio zaino, nel mezzo di un affollato vagone merci. Papà, la mamma e Misha sono alcuni vagoni più avanti. La partenza è giunta piuttosto inaspettata, malgrado tutto. Abbiamo lasciato il campo cantando. Papà e mamma molto forti e calmi. E così Misha. Viaggeremo per 3 giorni. Arrivederci da noi quattro! Etty ha imparato a pregare. Ed è quel gesto, compiuto a prezzo di quello che Jung avrebbe chiamato il viaggio notturno per mare, che la salva da ogni burrasca. Chi ha perduto la speranza di essere felice non può pensare alla felicità degli altri e non può neppure interessarsi all'altrui infelicità. Muore ad Auschwitz 2 mesi dopo, il 30 novembre 1943. Muore, che non ha ancora 30 anni.